io ho finito di mangiare poco fa. E beh, poi l'hai installato? Sì signore. E funziona? Sì, che funziona il programma. Però vuole la versione Vox, non quella normale. Ti sento malissimo, sento solo la televisione ma non a te. Ho capito che vuole Vox. Aspetta che chiudo la televisione. E quindi? Ho detto che Vox con RT95 normale non funzionava, non mi leggeva la radio. E quindi? Vuole la versione Vox. Questo ce la potevamo pure mettere. Ma CIRP l'ha usato? Sì, con CIRP l'ho letta la radio. Ah, quindi se l'ha letta la puoi anche programmare. Questo è per non perdere le programmazioni già fatte, capito? Adesso quella programmazione che hai letto te la salvi per sicurezza. Poi ci metti i toni che insomma l'hai già visto sì come si fa in grande in grande. Sì che l'ho visto. Adesso mi metto il canale, ma probabilmente non ci arrivo io al ponte, anche se lo sento, boh. No, guarda, se stiamo parlando di quello di Itri, è quasi impossibile. Che ci arrivo? No, che non ci arrivi, è di lì. Io ho il portatile anche appoggiato alla macchina, da qualunque parte del Sassari, tu c'è un'antenna esterna, scusa. Infatti. E ci vuole il tono però. Lo so. Ma tu hai finito di mangiare? Sì, sì. Beh, non ci riesci a metterle il tono. E poi ti dico come fare per scrivere. Aspetta che avvio il programma e il coso e gli metto il cavo alla radio. Sì, ascolta, però andiamoci da questo canale, sento tanta di quella gente che è un casino oggi, si apporta questa popolazione. Proviamo il canale 2. Ah, io sul canale 2. Aspetta che lo devo accendere anch'io, vabbè CIRP però non ce l'ho, ce l'ho con l'altro. Comunque, avvialo. Ok, l'ho avviato. Adesso dalla radio, se non l'hai già salvato, salvati il file dalle frequenze che hai messo. Hai messo tutte le frequenze oppure ne hai messo due o tre solo? E pochissime ce ne sono. Aspetta un attimo, ecco. Che sta per cloning from radio, sta dicendo. Quello dovrebbe essere, più che altro devi salvare, non devi clonare. Tu per leggerlo come hai fatto? Cosa c'è scritto? Read? Ehi, sta facendo un attimo questa storia qui, adesso te lo dico cosa ha fatto quando gli ho detto di leggere. Si sta prendendo i cosi della radio. Questa barra verde sta andando avanti, è quasi finito, aspetta. Sì, ricordati di non interromperla mai quando è in fase di lettura. E infatti non la sto interrompendo per quello. Ecco, rete vis vox senza nome. Salvatelo. Metti un nome, diciamo, originale, che ne so, primo gruppo di canali, almeno ti eviti di rifarli da capo. E ce ne sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 canali ci sono. Ma li stai ordinando o li stai mettendo così alla rifusa? Dovrei metterli meglio, dovrei ordinarmeli, capito? Allora inizia a metterci le memorie dei simplex, dai, io adesso non so come è strutturato, anzi sì l'ho visto, inizia a mettere tutti i simplex, magari iniziando dal VHF, e poi passi a tutti i punti. Infatti. 7 alfa c'è scritto solo il tono e poi la potenza, basta, non c'è scritto altro. Non so se ci devo mettere qualcos'altro, boh. C'è la potenza, NFM c'è scritto in tutti. Sì, tanto oramai è obbligatorio. Narrow frequency, banda stretta, in parole povere, 12.5 kHz. Il tono quant'è? Allora, nell'R7 alfa è 88.5. L'hai messo sulla parte di trasmissione, perché sono due, ricordati sempre. No, c'è scritto tono e solo qua. Modalità tono. Tone squelci, DCS code, DCS RX code, non c'è niente. Duplex c'è scritto qua. Offset, modulazione, potenza e salta. Quante lo shift lo mette giusto? Devi programmare frequenza, ricezione e trasmissione o fa tutto lui? No, non c'è neanche lo shift, adesso che ci penso qua. Allora, 85. Ecco. No, devo metterlo io. Beh, ovvio. VHF 0.600. Io lo so quello. 0.600, ecco, questo l'ho messo. Allora, attento che è un alfa e quindi ci vogliono i decimali anche sulle frequenze. Sì, c'è 100, allora 787500 c'è scritto. Aspetta che devo accendere anche il mio computer per dirti se esatto. Nel frattempo ci puoi mettere anche gli altri, tutti gli altri punti, non ce n'è solo uno comunque. Sì, ce ne sono pochini che prenderai, però mettiti anche quello dell'Imbara, che ne so, quello l'R1, comunque tra poco te le do. E me li scrivo così almeno poi me li metto tutti in fila bene. Adesso l'ho messo così questo qui, però poi lo metterò dove metto tutti i punti. Adesso metto quelle simplex prima in V, poi quelle in U e poi tutti i punti. Allora, dove erano i punti. Quindi la frequenza R7 alfa è 145, 78, 750 ricezione, 145, 18, 750 come trasmissione. Ok? E vabbè, però c'è solo quella di trasmissione, di ricezione qua. Non c'è l'altra frequenza, capito? C'è solo l'offset e V su shift. Sì, va bene, lo stesso, ci metti lo shift 0600. E infatti. Ovviamente meno, meno 0600. E infatti. Però non c'è nemmeno né più qua. Duplex, che non sia qua. Aspetta a vedere. Sì. Meno, ecco. Ok, adesso metti. L'hai sistemato quello? Natalia. No, me l'ha cancellato. E adesso bisogna che me li metta tutti in fila là. E devo fare tutto dall'inizio, se no te lo cancella. Beh, è ovvio. Comunque, questo qua l'hai sistemato il ponte. Aspetta. aspetta che lo sto mettendo. Ecco qua che vuole messo, se no è così cento. Mi ha messo degli altri zeri pure. Quelli lì non ci vogliono, no? Di norma li mette lui in automatico per completare il canale. Dovrebbero, tipo il mio, questo qua da ad esempio 430 appunto, 050 00. Sono i decimali, capito? Io ho capito. Allora, è terminato con questo R7 Alfa, sì? Sì, però bisogna vedere adesso se funziona, quello è. Abbi fai un attimino, che cavolo. Ricordati, se non c'hai un po' di fede, non fai da nessuna parte. Allora, adesso puoi passare sull'altro, ti crea un altro canale, l'R2 Alfa, che anche di lì ci arrivi senza problemi. Che è in ricezione 145.66250. Questo me l'ho scritto. No, mettilo sul programma. No, se no me li devo mettere tutti in fila, questi li devo tutti togliere. Lo so, ma noi ci serve per vedere come fa a sapere che il programma funziona per scrivere correttamente, se poi magari non incita il ponte che c'è da tre passi. A me serve per quello, poi te ne metti come ti pare, una volta che ci prendi mano, te ne metti tutti quelli che vuoi. Ho capito, allora, dicevi, questo c'è qua, 600, 500, 600, eccolo qua, qua ce l'ho. Com'è, 88.5 è quello, il 2? No, riverso, 74.4, fatto? No, non riesco a farlo. Questo qui non capisco perché. Ma dimmi una cosa, ti fa scrivere il programma sul coso? Perché ad esempio sui miei, compreso questo che è Anitone, che è identico praticamente a quelli lì, devi cliccare sul canale per poterlo fare e tappare un'altra videata con tutti i componenti del canale. Mi cancella tutto, non capisco perché, quando vado a mettere l'offset, capito? Perché sta sbagliando. Bisogna collegarsi in remoto, guarda, così me lo fa vedere, perché così, quindi adesso anche se lo scrivi, non scrivi niente. No, mi adesso c'è 145 e 600, dopo c'è 525, 462, 525 e quel canale in PMR che non me ne fotte nulla. Al limite io ce l'ho l'affare per il remoto. Appunto. Lo puoi collegare adesso? Sì, aspetta, lo metto a icona, il programma. Allora, dov'è? Qua, TeamViewer, ecco qua. Ecco, l'ho aperto. Mandami via un'email. Codice e password. C'è scritto il tuo ID e la password. Cosa mando? Solo la password o tutto? No, mi occorre l'ID e anche la password, me la mandi via mail e non la dire qua. Certo, aspetta, me lo scrivo. Ok. qui, aspetta un attimo. Ma lì, perduto? No, sto scrivendo l'indirizzo tuo. Ma non ce li ho memorizzati, non te lo dai in automatico. No, non me l'ha dato, mi ha dato quello di DDL, il tuo no. Metti scali.it, io guardo la posta attorno. No, ho capito. Sì, sì, è quello lì, aspetta un attimo. Potevi anche rispondere a quella che ti ho mandato, no? Dove c'era il link. Facevi, rispondi ed eri a posto. E così sto facendo, infatti. Te l'ho inviato. Sì, ho già visto. Sono dentro. E ho visto. Non vedo... aspetta, questo era il programma, no, cosa hai fatto? È nella barra del coso il circuito, aspetta, non apre però, devi aprirlo tu. Eccolo, aperto, sì. Ascolta, l'inizio da qua, così poi tu sotto te li puoi aggiungere bene, li puoi anche cancellare gli altri. Sì, inizia da dove vuoi, ok. Dai, come sto facendo qui. Ah, dicevi questo, che se lo toglie? Cancella di tutte quelle frequenze, cosa me ne ha fatto? Forse il secondo punto non ci vuole. Invece ci vuole, quanto pare. No, ecco. Si cambia la memoria, ecco perché. Come è strutturato. Ah, che palle. Lo vuole proprio esatto, E lo diamo esatto. E infatti. Non lo vuole proprio. Faccio una prova, vediamo un po'. Non li vuole. Ascò, e l'altro perché fa così, che fa che? Così ti fa vedere più roba. Prova a chiudere questo e passo sull'altro programma, sul suo originale. Oh, ma ricordati Vox. Era la con 5, giusto? Sì. Natali. Ehi, sono qui. Dove lo trovo il coso? Il browser. Chrome è lì. Chrome non lo vedo, ammilo mio, ci vive. RT95. Questo Vox tu non l'avevi installato, giusto? Ed è proprio quello, deve essere, ci vuole. Ok. Tu lo preferisci in cinese, no? Quello è. Così si ragiona. Adesso vediamo se obbedisce. Ricordati alla fine di togliere quell'altro programma, se no fai confusione. Ci ho potuto anche scrivere però. Vedi che l'ha letto. Ce le tolgo queste che sto segnalando, non so se lo vedi il mouse. Sì, togliele tutte, cosa me ne fotte. Poi intanto mi devo mettere quelli simple. Vedi come esce qua, come il mio. Qua ti metto... vedi che lo prendi subito ora. Poi Natali, i nomi te li metti tu oppure vedi un po' se ti ricordi le frequenze. Lo riconosci alla prima chito, io adesso ti ho corretto tutti gli errori, adesso te lo programmo, dimmi se vuoi che ci metta qualcosa d'altro, anche se sono disordinati, ora com'è ora, però è giusto per vedere se l'apparecchio cosa riesci a sentire, ecco, cosa riesci a trasmettere, vediamo un po', questo dovrebbe essere tutto ok. Ricevuto Natale. Ehi, sono qui. Io vado. Vai. Poi già me li metto io qualcosa. Hai capito come funziona cioè abbastanza semplice. Ricordati di cliccare sopra, come ho fatto io, in modo che ti appare, la maschera, così sei tranquillo. Poi piano piano te le metti a uno a uno, perché non è molto veloce come vedi il programma, è abbastanza, come dire, così, dai. Mi fatto. Oh, adesso vediamo un po'. Qua posso chiudere, sì, hai capito, è questo, è occhio, che lo sto chiudendo, che è questo che sta all'atto, questo te lo chiudo. Vediamo se lo chiude. E ti chiudo anche l'altro. Ok, vediamo dove l'ha messo. Ecco, questo te lo disinstallo, o lo sai già fare tu? Andiamo su disinstallare, non c'è problema, basta 100, perché l'altro è la V. Aspetta, sono andato, non c'è pronto, non sto facendo la testa, vediamo un po'. Dove diavolo è? Perché purtroppo non... c'è questa cosa scomparsa, che è una rottura di palle. Oh, anche questa è fatta, quindi te l'ho tolta come cosa. Sì, infatti. Anche questo volendo lo puoi togliere, tanto non se ne frega niente. Questi tre, tanto oramai installato. E vabbè, ma me li salvo in un disco esterno che c'ho io, quello Vox. Se non c'è altro mi disconnetto. Però ti manca una cosa. Il ricevitore ne hai? Sì, e ce l'ho. Il programma che ti avevo detto di scaricare non te l'hai, mi ha scaricato, non ce l'hai. Quale? Multi PSK. Multi PSK. Cioè MSTV. Questo lì hai i programmi che ci sono. Ah, USJTX, ciao. No, no. Ti metto questo che c'ha tutto. Io chi? Però vedo che l'avevi scaricato, ciao. Che cosa scaricato? L'avevo scaricato. Sì, aspetta, ma non ho capito se... No, ho sbagliato, lo sto scaricando io, non tu. Allora, questo multi PSK, perché c'ho la sbarra tua che non si vede, ed è, se sono fatta la mia, e non riesco a... Ma che... niente, non ce l'hai. Te lo scarico, allora vediamo un po'. Questo ti permette di vedere RTT, Trick and Track e compagnia varia. C'ha tutto questo. Già lo vedo, qua. Solo che non ho in attivo, io non lo posso usare. Che cosa non è più? Non ho il nominativo. Ma puoi ascoltare. Che problema c'è? Adesso t'assordo, ti posso assordare? Assorda. Casino ne fa. Manca appena. Poi per togliere questo ci mettiamo un pochettino di squelcia, se no chissà lo sto ricevendo. C'è anche questo, guarda. Dov'era? Eccolo qua, se vuoi imparare. Lo puoi anche fare. Se ci riesco. Sto trasmettendo? Bello. Ah, mi è arrivato il tasto. Doveva arrivare tempo fa, mi è arrivato ieri. Ecco questo, se c'è l'oscillatore puoi vedere anche se digiti bene. Un'alternativa ti fa ascolto, tanto presumo che le stazioni già le senti. Questo lo sai come si collega, è una cretinata. ti occorre un cavetto audio, quelli stereo, li conosci, lo colleghi uno all'ingresso microfono e le direi al programma tramite questo, lo vedi, configurazione, configuration screen, ok, sound card, questo è l'ingresso, adesso c'è computer, per farlo sound card, oppure le metti un microfono, cioè un microfono, un ingresso audio, no? Che può essere quello di una radiolina, di un qualsiasi oggetto che ti pare piace. Ho capito. Questa praticamente è l'ingresso del decodificatore, in parola povera. Tu vedo che c'è solo questo microfono HP, c'è una webcam evidentemente, però nella tua scheda audio sicuramente ci sarà anche qualche altro ingresso, che è quello di color rosa, se non ricordo male, o rosa o linea d'ingresso anche meglio. E c'ho anche un microfono proprio per computer. Sì, vabbè, ma qua si lavora a livello di cosa, come si chiama, di uscita audio. Tu, a posto di inserire le cuffie, inserisci lo spinotto del computer da qualche parte, un ricevitore, un coso. Poi una volta che ci prendi la mano, è uno scherzo, senza interfaccia, senza niente. Sì, infatti. Io già me lo faccio spiegare dal mio dirimpettaio, che c'ho un amico mio che trafficava molto. Vabbè, ma io sono, diciamo così, uno dei principali che l'ha consigliato a tanti, ce l'ho da 30 anni, le sto dietro a Patrick. Va bene, detto ciò, io mi posso anche sconnettere. Il programma è questo, non ti piace cazzo. Questo è quello di programmazione. No, però devi provare la radio, no? Sì, la proviamo a vedere se fa. Mi sono sganciato, come hai visto. Stacca il cavetto USB, ovviamente. Provalo su quello che c'è giù. Capisci, al volo dai un colpetto giù nel mar, non fa. Ho provato, ma quello che c'è al mare l'hai sentito? Cosa? Io faccio il canale, non me lo ricordo, quello che c'è giù, il vostro, dai, in quanto è iscritto. Ho capito. Natali, capisci al volo, quella radio la puoi provare? Sì, aspetta che vado nei canali. Possibilmente nelle memorie. Inizia col 2. Vediamo un po' cosa succede. Hai un colpo. E allora? Però se non le ha prese le memorie, Come non l'ha presa? Non si è spenta, è riaccesa la radio. No, la radio non si è spenta. Aspetta che la spengo e vedo un po'. Perché se la tirate fuori, le anche prese, ma tu stai andando col VFO. Due solo ce ne sono memorizzate, Come due sole? Ecco, l'ho trovato. Natalie, va. Adesso appunto. Due brivi. Già fatto. Adesso ha fatto quello del mare. No. Quello era uno, comunque. Ma sei tu o no? Ero io. Santo cielo, mamma mia. Mica ti bucciumi. Guarda, dammi il segnale, quanto arriva? Fondo scala, tutte e due, lì. Adesso sei sull'altro, prova l'altro, visto? Qua. Allora mio. Guarda quello del mare, fondo scala lo stesso. Ma che te ne scendere, mi stavo già preoccupando. Va bene Natalie, dopo che mi hai fatto incavolare, adesso ti spandi col muro, così ti impari, perché me stanno andando a riposare, non mi hai fatto neanche digerire, questa me la paghi. Dai, già ti pago il caffè quando ci troviamo, caspittina, tu pure. No, te lo pago io Natale il caffè, andiamo a un posto che ti faccio dare il caffè di Sindona, che sicuramente ti piace molto, infatti se l'ha scolato tutto. Ma è anche morto. Non sta a guardare il cappello, poi c'era un buon sapore, era un caffè alle mandorle. Quello non ero io perché sono in quella monito. No, stavo anche ascoltando, poi tanto lo so benissimo che c'è sempre qualcuno che ascolta e qualche altro anche che tenta di rompere, anche quello c'è, c'è poco da fare, ci sarà qua, ci sarà là, ci sarà anche F, ci sarà un motivo per cui la gente non accende più, no? E può darsi. Vabbè, sono contento che funzionano, almeno quelli. Quello dello zero non funziona, no? Poi non si incava a piede perché praticamente a ogni temporale che manca la luce o se manca la luce non si riavviano. Tutto lì. Bisogna che ci salga io lì. Con la mazza fa danno. E se dopo funziona, ma se salgo io? Però ti devi rimanere lì, appeso con l'antenna puntata bene, la tieni in mano la direttiva, ma no, non altri muretta, anche quando c'è la neve tu te ne stai lì tranquillo, sorreggendo l'antenna. E se mi viene altri muretta, dopo funziona col USB? Appunto, tanto da lì ti viene bene anche a farla, no? E allora bisogna essere tetaro lì. Mi raccomando, se manca la luce subito a sollevare l'interruttore. Scatta. Ma scatta il contattore proprio allora lì? No, di lì la luce manca spesso perché è zona alta. Quando manca evidentemente non c'è il gruppo di continuità che lo regga per abbastanza tempo, se manca per un'ora ad esempio, e poi non risale se il coso è scarico, capito? Ho capito. Perché volevano programmate per la riaccensione automatica. Infatti, bisogna vedere cosa capiteggia, io non ho capito bene cosa succede per trovare una soluzione. Ma già devo salire intanto, dice la prossima volta già mi portano. Ma se ci sono i connettori Motorola lì, è un casino perché bisogna mettere i connettori Motorola e abilitare il PIN per attivare quella funzione, capito? Tutto lì. E adesso vediamo, io non l'ho neanche mai visto quello lì. Ero salito tempo fa sull'Imbara perché dovevamo fare un'altra cosa con un amico. Adesso vediamo. A proposito, dimmi, l'Imbara lo senti? Non ci ho mai provato. Non so manco. Ma quello digitale stai dicendo? No, quello normale. A 0,25. UHF. Non ci ho mai provato e bisogna che lo vedo. Lo vedi, ce l'hai lì, giusto per capire se sei esposto verso l'Imbara. Tu vediamo un po' cosa c'ho qua, come tira. Provaci. E dammi la frequenza. Se c'è già, è il terzo che c'è. E opera a 0,25. L'unico che trovi a 0,25 è lui. Le prime tre cifre con lo zero. Porca miseria. Era 4,3. Adesso mi sta facendo rincoglionire. 4,30 a 0,25. Ehi, già quello. Ma lo senti? Non sento nulla. Ho provato, ma niente. Evidentemente non ci arrivo. Guarda. Non lo senti neanche adesso. La coda? No, negativo. Con l'antenna vuole più alta. No, piccolina, ce ne vuole una un po' più performante, là. Me la metterò. Adesso cosa vuoi fare? Ah, non posso fare nulla. Cerca di farti promuovere, se no altro che caffè di Sindona. Chiamo l'asinello e ti facciamo sistemare. E allora, con muro parlo se non mi promuovono. La senti la signorina che parla? E da te sì, da me non la sento, non ci arrivano. È troppo bassa anche l'antenna, oltre che già è in alto, ma la X30 mi sembra che fosse, o la X50, adesso non me lo ricordo. Ovviamente ci ha messo il cavo il RG58. No, quello grosso ho messo. No. Vabbè, dai, vediamo un po', ma insomma ne vado perché non ho fatto il mio riposino del guerriero, e quindi ci sentiamo più tardi. È così. E comunque adesso sai come fare, capito mi hai? Sì signore. Vabbè, poi se c'è problemi con quell'altro per l'ascolto, ti dico alcuni trucchetti e vedi che funziona a meraviglia, anzi, probabilmente starei sempre attaccato lì. Certo che sì. Stiamo a vedere. A dopo, ciao. Ciao, ci sentiamo alle cruci. Fatti sentire più spesso però, perché io non ho modo di contattarti, non c'ho neanche il telefono tuo, quando mi servi. No, quel telefono meno circola e meglio è, perché è anche un numero particolare, capito? Sì, già lo so, e anche un amico mio era in quelle condizioni, là. Cerca di capire, io già ho capito già. Bravo. A buon intenditore, poche parole. Ok, dai, ci sentiamo stasera magari. Ecco.